crisi greca spinge giù le borse, marcegaglia al governo subito manovra e riforma fiscale, il DL sviluppo, il governo preannuncia la fiducia, Angelina Jolie a Lampedusa, necessaria più tolleranza. Questo è il racconto della giornata alle 13 di Radio 24. Vi saluta Daniele Biacchesi. È il racconto che inizia dalla decisione dell'Eurogruppo di rinviare la nuova tranche di prestiti ad Atene in attesa di riforme, che ha decisamente depresso tutte le principali piazze europee. Per gli ultimi aggiornamenti sulle borse siamo in diretta con Deborah Rosciani. Sì, buongiorno Daniele. Si sperava effettivamente che il vertice di domenica dell'Eurogruppo potesse portare allo sblocco immediato della nuova tranche di aiuti per 12 miliardi di euro alla Grecia per rasserenare i mercati finanziari oggi all'apertura. Invece il vertice dei ministri finanziari ha visto prevalere la linea della prudenza e del rigore. Il comunicato diffuso al termine dell'incontro promette lo scongelamento dei nuovi fondi alla metà di luglio, ma li condiziona al varo di nuove misure di austerità da parte del governo di Atene. Questa condizione stamattina deprime, come dicevate, le borse. Peraltro Parigi perde l'1,18%, Parigi ha subito stamattina anche un'apertura ritardata per problemi tecnici, Francoforte sta perdendo un punto, Londra perde lo 0,67%, Milano perde il 2,50%, 2,5 punti, a picco tutte le banche. Questa mattina naturalmente su Milano si è abbattuta soprattutto la decisione di Moody's del fine settimana di mettere sotto osservazione il rating per un possibile downgrade, per un possibile appunto abbassamento di giudizio del debito del nostro paese. E i titoli che perdono di più sono la Popolare di Milano, meno 9 punti, Monte dei Paschi, oggi comincia l'aumento di capitale, meno 5 punti percentuali. Direi che per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E veniamo alla politica, perché ieri è stata la giornata di Umberto Bossi davanti a 40.000 persone a Pontida, la Lega che ha dettato le sue condizioni al governo, condizioni molto precise, acclamate dalle 40.000 persone che continuavano a gridare secessione, anche se poi Umberto Bossi ha un po' stoppato dicendo che c'è ancora appunto da aspettare, ma poi c'era questa enorme scritta Roberto Maroni, Presidente del Consiglio, che dà sostanzialmente l'idea in breve di quello che potrebbe capitare nella compagine di governo. E allora iniziamo con Stefano Folli. Buon pomeriggio Stefano. Buongiorno a voi. Allora, quali sono le condizioni che la Lega pone realmente sul piatto della maggioranza? Guarda, le condizioni sono quelle che vengono dette, ma sono la Libia, l'immigrazione, tagli ai costi della politica, però sono anche condizioni per modo di dire, nel senso che nel momento in cui si dice, come ha detto Bossi, che questo non è il momento di andare alle elezioni anticipate, che non ci può essere un cambio perché non ci sono le condizioni, beh, in qualche modo si attenua parecchio la portata di queste condizioni. In politica gli ultimatum, quando vengono dati, devono essere poi supportati da una strategia ben chiara. Non è questo il caso, però certamente c'è un malessere profondo, si è capito benissimo, quello striscione su Maroni, Presidente del Consiglio, vuol dire che il mondo leghista non ne può più di questa alleanza con Berlusconi, che invece Bossi considera ancora necessaria perlomeno fino al termine della legislatura. Quando sarà? Potrà essere l'anno 21, potrà essere il 2013, quindi siamo in questa situazione, il governo era debole prima di Pontida, continua a essere debole dopo Pontida, ancora più è più chiaro dopo il discorso di Bossi che una fase politica si sta esaurendo. Non è che Bossi sta facendo un po' melina, cioè sta cercando di trovare il pretesto per rompere con Berlusconi. Dico questo perché proprio di poco fa lo stop da parte di Cicchitto per quanto riguarda i ministeri a Monza, lo stop per quanto riguarda vari ministeri nel nord del paese. Quindi c'è un titolo che vedo in tante, come sotto le reazioni a Pontida, un titolo che dà proprio l'idea, cioè da una parte la Lega che chiede lo spostamento di Dicasteri a nord e dall'altra il PDL che dice no, devono restare andare tutti a Roma. Non è che Bossi sta aspettando il momento in cui questo no poi dopo diventa il suo no? È possibile anche questo, anche se mi sembrava quello di ieri un Bossi piuttosto difensivo, piuttosto preoccupato di non buttare all'aria l'attuale equilibrio, no? L'ha detto chiaro, non saremo noi che spingeremo il paese alla rovina, e il legame con Berlusconi mi sembra ancora molto forte. Aggiungo che un paese che con la situazione economica che c'è, con la situazione finanziaria che conosciamo, fa una crisi di governo sullo spostamento ipotetico dei ministeri tra Roma e Milano, insomma, voglio dire, altro che speculazione finanziaria, ci dobbiamo aspettare di tutto, faremo ridere l'intero mondo. Grazie Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, e vediamo all'altro racconto, questa volta più di cronaca, con il governo che ha preannunciato il voto di fiducia alla Camera sulla conversione in legge del DL Sviluppo. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, tutto come previsto per il decreto sviluppo, il governo sceglie la strada della fiducia, la decisione era già nell'aria ma è stata oggi formalizzata, si voterà domani alla Camera nelle stesse ore in cui il Premier sarà a Palazzo Madama per la verifica di governo, è la fiducia numero 44 di questo governo Berlusconi, il maxi emendamento presentato oggi fa saltare alcune norme approvate dalle commissioni bilancio e finanze della Camera, dai precari della scuola alla tassa TAV, all'emendamento D'Antoni che aveva destinato l'uso dei fondi FAS per le assunzioni al Sud. Stralciate anche le sanzioni per i giudici tributari che non si esprimevano in tempo sugli accertamenti esecutivi. Immediate le critiche dell'Italia dei Valori, un provvedimento che blocca ogni speranza di stabilizzare i precari della scuola e che rappresenta un pericoloso precedente per altri settori. Protesta anche il presidente della Commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, il quale ritiene responsabile il Quirinale della soppressione di alcune norme. Il Parlamento va tutelato, dice, scriverò una lettera a Napolitano. E da Roma è tutto. Alessandra Schepisi in diretta su Radio 24, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia interviene su riforme e tasse all'Unione Industriale di Torino dove si è svolta l'assemblea degli imprenditori subalpini. Ha detto che bisogna approvare prima possibile la manovra da 40 miliardi e contemporaneamente andare avanti su una serie di provvedimenti per aiutare la crescita, tra cui la manovra fiscale che Marcegaglia pensa debba essere a parità di pressione fiscale complessiva. E un altro tema in discussione è certamente la missione italiana in Libia. Siamo in diretta con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, è proprio così, dopo il raduno leghista il ministro degli esteri Franco Frattini risponde al carroccio sulle missioni internazionali, ricordiamo che la Lega ha chiesto lo stop ai bombardamenti in Libia, sentiamo cosa dice Frattini. Le missioni sono certamente utili, devono essere affrontate ovviamente in un quadro di collaborazione internazionale. Non ci sono né ritiri unilaterali, ma neanche uno status quo a tempo indeterminato. Come è noto, noi abbiamo già avviato una revisione graduale e concordata. Ma non è l'unica risposta del PDL alla Lega, il sindaco di Roma Gianni Alemanno è pronto a contrastare la richiesta del carroccio di trasferire alcuni ministeri al nord, dice è pronto una mozione parlamentare che assicura avrà il 90% dei consensi bipartisan. Dall'opposizione invece il Partito Democratico risponde che non appoggerebbe mai un governo a guida leghista, magari con Presidente del Consiglio Roberto Maroni, lo dice Enrico Letta che è anche convinto che non ci sarà mai un governo di questo tipo nel centrodestra, ma ci sarà il tentativo di andare avanti ancora un po', anche se ormai non ci sono alternative al voto. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. E di poco fa la notizia che in Italia i rifugiati sono 56.397, gli apolidi 854, i richiedenti di asilo ammontano a 4.076 unità. Lo rivela il rapporto statistico annuale Global Trend 2010 stilato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che è stato presentato oggi in anteprima mondiale a Roma in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Rifugiati. Intanto ieri tutti i riflettori erano puntati su una star che è arrivata a Lampedusa per parlare di migranti. Il suo impegno come ambasciatrice di buona volontà dell'ONU lo prende sul serio. Dopo aver visitato venerdì in Turchia i profughi siriani sfuggiti alla repressione di Assad, Angelina Jolie è arrivata a Lampedusa. Struccata, vestita semplicemente, si è presentata davanti alla stampa, alla Porta d'Europa, monumento che ricorda i migranti morti in mare, insieme all'alto commissario ONU per i rifugiati, Antonio Guterres. È difficile pensare quante persone hanno rischiato e perso la vita a loro e dei loro bambini guardando questo bellissimo mare, ha detto. Vedo qui famiglie e penso come la vita di queste persone deve essere stata orribile per decidere di andare in mare su quelle carrette con il rischio di morire di fame e di sete o di annegare. Taccuino alla mano, prendendo nota di tutto, ha incontrato i migranti e ha parlato con loro nel centro che ieri accoglieva 190 persone. Si è anche fatta prendere le impronte digitali, così come prevede la procedura riservata agli immigrati che sbarcano sull'isola. Nel mondo serve più tolleranza, ha concluso prima di riprendere l'aereo per Malta, dove l'attendeva il compagno Brad Pitt. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie Marta, l'Inter è sempre alla ricerca di un allenatore, vero Dario Ceccarelli? Sì, è sempre alla ricerca e mi sa che lo cercherà ancora per un bel po'. Ultimamente, in questo strano valzer degli allenatori che ha avviato la società nerazzurra, ognuno ha una buona ragione per dire no. Prima Mihajlovic, ieri Villalobos, domani chissà, forse Capello, forse Spalletti o Hiddink. A questo punto di questo ballo i casi sono due, o è un problema dell'Inter oppure, ed è più preoccupante, la cosa riguarda il calcio italiano, come se in questi ultimi anni avesse perso il suo appeal. Agli stranieri piace meno di una volta. Una volta facevano la fila per entrare nel campionato più bello del mondo, ora alla larga. Forse stadi semi vuoti, scandali a getto continuo, casse in rosso e polemiche a pioggia e, come dire, ci hanno trasformato in un mercato residuale da non prendere in considerazione se un'altra offerta arriva da altre lighe, tipo la spagnola oppure quella inglese o tedesca. E poi anche i nostri allenatori con la valigia, tipo Capello o Carlo Ancelotti, nicchiano. Capello non dice né sì né no e Ancelotti, pur di non tornare in Italia, preferisce stare fermo un altro giro. Tanto per tornare c'è sempre tempo. Sono le 13:16:11, vi parla Daniele Biacchesi. Questi i titoli a riepilogo delle principali notizie che avete ascoltato, soprattutto nella prima parte. Marcegaglia al governo, subito la manovra e la riforma fiscale, il DL sviluppo, il governo che ha preannunciato la fiducia, la crisi greca che spinge giù le borse, Angelina Jolie a Lampedusa che dice che è necessaria una maggiore tolleranza. Bene, veniamo alle inchieste sulla cosiddetta P4. Dobbiamo stare attenti ai telefoni. Dicono che Woodcock ci sta controllando i telefoni. E quanto afferma Luigi Bisignani in una conversazione con il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, che è stata intercettata il 2 dicembre scorso. La circostanza emerge dalla lettura delle richieste di misure cautelari avanzate dai PM Woodcock e Curcio nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P4. La conversazione avviene durante il periodo in cui, secondo i magistrati, Bisignani stava occupandosi in prima persona del voto del Parlamento riguardante un emendamento riferito alla materia dell'ambiente. Sarà appunto interrogato Bisignani tra poco, ma sentiamo in questo servizio chi è Luigi Bisignani. Sono sopravvissuti più e meglio di altri al passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Un tempo li chiamavano faccendieri, oggi li chiamano lobbisti. Luigi Bisignani è uno dei principi della categoria. Giovane cronista dell'ANSA, diventa poco più che ventenne capo ufficio stampa del ministro del tesoro Gaetano Stammati durante i governi Andreotti degli anni 70. Risulta iscritto alla P2 con la carica di reclutatore, ma smentirà sempre l'appartenenza alla loggia massonica. Sviluppa una rete di contatti con il Vaticano e apre un conto nella banca dello IOR, da dove transitano fiumi di denaro che ingrosseranno la maxi tangente Enimont. Per questo sarà condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Sopravvive a Tangentopoli e lo ritroviamo nell'entourage del Ministero della Giustizia, prima Guida Castelli, poi Mastella. Un uomo bipartisan, l'amico di tutti, come lo definisce Gianni Letta, sentito dai magistrati come teste. Oggi Bisignani deve rispondere di associazione a delinquere e rivelazione del segreto d'ufficio. Per i PM è il capo di un'associazione segreta capace di gestire nomine e appalti, di interloquire con ministri e boiardi, ma sarebbe anche capace di attivare la cosiddetta macchina del fango qualora gli eventi lo richiedessero. Comunque finirà l'inchiesta, sono in molti a chiedersi se prima, seconda o terza repubblica l'Italia farà mai a meno di questi faccendieri o, pardon, lobbisti nella gestione del potere. Romolo Napolitano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovo colpo alla clan della Camorra in Campania. va a casa per festeggiare il 66esimo compleanno della madre e viene catturato. Il latitante Pasquale Abate, ritenuto reggente dell'omonimo clan, detto anche dei Cavallari, attivo nella zona di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è stato individuato ed arrestato dai carabinieri di Torre Annunziata, che avevano circondato l'abitazione preventivamente. Latitante dal 2009, l'uomo 48enne era ricercato per scontare un residuo di condanna a 22 anni di reclusione inflittagli per associazione a delinquere di tipo mafioso e altri reati. All'arrivo dei carabinieri ha tentato la fuga da un balcone, ma è stato bloccato dai militari che avevano circondato tutte le entrate e le uscite prima della blitz. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Andiamo in Gran Bretagna, dove il primo ministro David Cameron spinge per far partire il progetto di Big Society, ma al suo zelo riformatore si contrappone la cautela di molti alti membri del partito e soprattutto degli inglesi. Il documento sta già circolando tra i ministri e fino a quando David Cameron non avrà la piena approvazione da parte di tutti non lo farà uscire. Il passo è molto importante. Definito la Big Society, si tratta della grande promessa dei conservatori. Consiste nell'istituzione di un personal budget da consegnare alle famiglie, togliendolo di fatto ai municipi che ad oggi controllano i servizi di assistenza e cura. La Big Society si fonda su 4 punti chiave. Gli anziani potranno scegliere come spendere i soldi per le proprie cure e così accadrà per i lungodegenti e per i genitori di ragazzi disabili. I comuni si occuperanno solo di parchi, librerie e traffico. Il test è già in corso a Londra, Liverpool e sembra funzionare. Per farvi un esempio pratico, la famiglia di un ragazzo disabile, invece che mandarlo in un centro comunale, con il budget a disposizione, lo ha fatto partecipare a un laboratorio nel quale ha imparato a coltivare e prendersi cura di un orto. Il risultato è stato sorprendente. Lo stesso è successo per gli anziani. Molti, già destinati a una casa di riposo, hanno potuto investire il loro budget personale per pagare un'infermiera che stesse con loro. Per i laburisti si tratta di una follia perché determina la chiusura di tutti i centri di assistenza per l'infanzia e la famiglia, con la conseguente perdita di lavoro per 60.000 persone. Gli inglesi sono divisi, molti sembrano tentati dal nuovo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La moda dice tanto, dice praticamente l'intera epoca anche dello spettacolo. Testimonia la nascita e la crescita del Made in Italy degli anni 80 in poi. La mostra del teatro alla moda a Palazzo Morando a Milano fino al 10 luglio. Il curatore Massimiliano Cappella. Il primo impegno della moda italiana per il teatro proprio del 1980 con la Traviata delle sorelle Fendi. E poi da lì incominciano tutti gli altri, Armani, Versace, i Missoni, poi Capucci, poi via via. Diciamo che diventa anche di moda occuparsi di teatro e in quegli anni in cui il teatro comunque aveva e dava una grande visibilità, oggi molto meno perché vista poi questa crisi spaventosa e questi tagli, io credo che la mostra mette in evidenza anche un mondo che non esiste più, perché è inconcepibile, impensabile oggi creare degli abiti come quelli che abbiamo in mostra. Alcuni pezzi hanno bisogno di 4, 5, 6 mesi a pezzo di realizzazione, ci sono dei pezzi da 50, 60 mila euro e oggi è impensabile, impensabile. Vuoi fare il lifting su un'opera d'arte oppure su un monumento? È possibile oggi perché può arrivare un curioso aiuto dai batteri. Batteri che divorando vecchie colle e sporcizia riportano gli originali splendori, affreschi storici, antichi marmi, pietre scolpite. Una tecnica selettiva e non invasiva già applicata al Duomo di Milano, alla Cattedrale di Matera, al Castello del Buon Consiglio di Trento. Giancarlo Ranalli, microbiologo dell'Università del Molise, è il pioniere della messa a punto di questo metodo di biopulitura. Il battero da noi usato non è tossico né per gli operatori né per l'ambiente, tantomeno per le opere d'arte se ben guidato. Questa è assolutamente